Did you notice what Sarah said when she agrees to have a coffee? Sì, un espresso per me. But what if she was with someone else and wanted to say what they were both going to have? Un espresso? Sì, un espresso per noi. Yes, an espresso for us. Listen and repeat. Per noi. And what about for you in the singular? For example, a bartender would ask... Un espresso per lei? An espresso for you? Listen again and repeat. Per me. Un espresso per lei? And finally, what if the bartender was asking more than one person? He would ask... Un espresso per voi? An espresso for you, plural. Listen and repeat. Per voi. Depending on the degree of formality, he could also have asked... Un espresso per loro? An espresso for you, plural formal. Listen and repeat. Per loro? That last one is much more formal and not used very often these days. Now imagine you're a customer in a coffee shop. In un caffè. And you answer the bartender's question. Say the answer in the pause. Dica la risposta durante la pausa. And then repeat the correct answer. E dopo ripeta la risposta esatta. Cominciamo. Un cappuccino per lei? Sì, un cappuccino per me. Una pasta per voi? Sì, una pasta per noi. Un espresso per loro? Sì, un espresso per noi. Un caffè macchiato per lei? Sì, un caffè macchiato per me. Un liquore per voi? Sì, un liquore per noi.